Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, allora in sintesi, Milan qualificato agli ottavi di finale, Inter quasi, Napoli rimandato allo spareggio del prossimo turno in casa contro il Manchester City, stasera l'Europa League con l'Udinese sul campo dell'Atletico Madrid e la Lazio obbligata a battere in casa lo Zurigo, a differenza dell'Udinese che ha una eccellente classifica e quindi potrebbe anche permettersi una sconfitta, ovviamente provando ad evitarla. Alcuni commenti di ieri sera, poi alcune anticipazioni di oggi, nel frattempo all'800 24 00 24 i vostri interventi, i vostri commenti e poi un paio di collegamenti di stampo europeo. Non prima di qualche numero, 38 gol in questa giornata di Champions, la giornata come si sa comprende le due serate del martedì e del mercoledì, 2-0-0 soltanto, ma dopo due giornate in cui non ce n'erano stati e dopo due turni senza sconfitte, quella del Napoli a Monaco, ma che è solo però la seconda sconfitta in 16 incontri giocate dalle nostre squadre. Breaking news. E c'è un aggiornamento sul fronte della crisi europea, perché il premier greco Papandreou ha fatto sapere poco fa di essere disponibile alla costituzione di un governo di transizione, dunque a fare un passo indietro. Lo hanno riferito poco fa fonti vicine al Consiglio dei Ministri. Il tutto avviene nel giorno nel quale al G20 di Cannes l'Europa aumenta il suo pressing attorno alla Grecia, che come sapete ha annunciato un referendum sul pacchetto di aiuti europei. Aggiornamenti a partire da le prossime edizioni di GR24 alle 15. Beh, insomma, questa è un'Europa che conta certamente più di quella di cui stiamo parlando qui in sede sportivo calcistica. Tre squadre già qualificate agli ottavi dopo queste prime quattro partite, che sono in ordine di punteggio il Real Madrid, che ha ottenuto 4 vittorie su 4, ha segnato 10 gol e non ha preso nessuno, dunque il Real Madrid, il Barcellona e il Milan. E poi ci sono altri numeri che vi darò in corsa. Alcuni commenti di ieri sera. Intanto l'analisi, la disamina di Mazzarri su questa strana sconfitta del Napoli, che sembrava delinearsi come una mezza catastrofe, e poi invece alla fine è stata una sconfitta direi onorevole. Abbiamo fatto qualche ingenuità e l'abbiamo pagata subito. Loro con due tiri si sono trovati in vantaggio 2-0, noi abbiamo fatto due o tre occasioni importanti e l'abbiamo fallite. Poi c'è il rammarico che il terzo gol non abbiamo fatto in tempo a fare il cambio, l'abbiamo preso in 10 e questo dispiace. Non avessimo preso quel gol lì, per come abbiamo poi fatto un secondo tempo secondo me eccezionale, anche in 10 contro 11, poi loro sono rimasti in 10 anche loro, quindi l'abbiamo tentate tutte, grande partita da parte della mia squadra. Uno di quelli che più ne ha tentate davvero dall'inizio alla fine è stato senza dubbio Lavezzi, che a differenza di Cavani e di Hamsik, sto parlando dei tre tenori del Napoli, che tra l'altro saranno chiamati a un altro concerto d'eccezione domenica sera nel posticipo di campionato contro la Juventus. Dei tre tenori, dicevo, l'unico all'altezza in questa fase di stagione è certamente Lavezzi. Sentiamolo. Io penso che abbiamo iniziato bene la partita, però con una squadra come il Bayern non le può regalare 15 minuti, perché si è visto quello che è successo. Sicuramente che è una squadra forte che lotta per vincere la Champions, però per noi oggi l'abbiamo messo in difficoltà, soprattutto i primi 15 minuti. Dopo magari abbiamo avuto 15 minuti non così buoni che abbiamo preso tre gol. Perché il Milan ha già qualificato l'Inter quasi, domanda un ascoltatore. Beh, perché i numeri sono, perché questo dice la classifica, il Milan non può più essere raggiunto dalla terza e dalla quarta, quindi è già qualificato e si giocherà nel prossimo turno a San Siro contro il Barcellona, mercoledì 23 mi pare proprio di ricordare, si giocherà alla testa del girone, se vince è primo nel girone, se pareggia o perde il girone lo vince il Barcellona, l'Inter con 9 punti a 2 squadre a 5 e quindi non è ancora certo di poter essere qualificata, anche se è ovvio che è praticamente quasi qualificata. Ecco spiegato, no? non mi sembra ci sia molto da strolgare. L'analisi di Ranieri su questa partita che l'Inter ha vinto contro il Lille. Avevo chiesto alla squadra appunto di continuare a lottare, a credere, perché se no io vengo a parlare da voi, vi dico che ci crediamo e poi dopo i fatti però mi smentiscono, insomma, sì. Fino a quando potevo. Evidentemente c'è quel qualcosa che ti fa avere un'agitazione interiore, spero che poi piano piano, avendo una continuità nei risultati, nelle vittorie, tutto questo deve scomparire. Beh sì, non si può dire che sia stata la miglior Inter, un Inter convalescente, ma mi pare lo testimonino anche i numeri di spettatori. È stato un mezzo flop ieri sera, anzi facciamo così, è stato proprio un flop, considerato che la partita televisivo, intendo, la partita l'ha trasmessa Rai 1, quindi il massimo della visibilità possibile, ebbene l'hanno vista 4.082.000 spettatori per uno share del 13,98%, nettamente sotto la media di una partita di cartello che riguardi una squadra di cartello in Coppa dei Campioni o in Champions League, se preferite, visto che siamo ancora nella fase a gironi. È stata una serata rocambolesca per quanto riguarda un giocatore simbolo dell'ultima Inter, cioè Milito, che ha sbagliato sotto porta tutto quello che era possibile sbagliare, anche qualcosina di più, prima di essere gratificato di un assist dal suo nazionale e amico Zanetti, che lo ha consolato di tutte quelle precedenti padelle. Sentiamo Milito. Me lo auguro sinceramente che sia un po', sia sbloccato, insomma. Purtroppo noi attaccanti viviamo questi periodi, i momenti, è stato un periodo negativo, non riuscivo a fare gol, ho avuto anche un po' di sfortuna, diciamo, la prima che ha toccato la traversa, la seconda ho sbagliato un gol incredibile io, però almeno dopo una gran giocata di Pupi ho potuto fare questo gol che ti permette di stare tranquillo e soprattutto tranquillo io. È vero, Milito ha ragione, la prima occasione, insomma, c'è stata anche una bella dose di sfortuna, perché da lì si fa gol, ma insomma lui ha preso la parte inferiore della traversa con un bel lob al volo, e quindi lì indubbiamente un minimo di sfortuna c'entra. L'intervento di Cassano è fissato per domattina, sarà il professor Carminati, primario di cardiologia dei difetti congeniti del Policlinico San Donato, a operare Cassano all'ospedale maggiore, al Policlinico, dove il calciatore è ricoverato da domenica. L'intervento dovrebbe terminare già nella primissima mattinata e dovrebbe durare non più di un quarto d'ora, tra l'altro in anestesia locale. C'è una voce, forse non c'è il tempo adesso prima del traffico, una voce interessante da ascoltare oggi, è un'intervista che ha appena trasmesso Sky Sport 24 a un arbitro, all'arbitro Rizzoli, che parla in generale di errori arbitrali e della rivoluzione culturale che servirebbe per far sì che gli arbitri acquisissero il diritto di parola che nella fattispecie gli è stato concesso da Nicchi, per parlare anche direi che il pretesto, ma insomma il motivo è stato l'errore indubbio e indubbiamente abbastanza grave che Rizzoli ha commesso nella partita di domenica sera tra Inter e Juventus, quando non ha concesso alla Juventus un clamoroso rigore per l'atterramento di Castellazzi su Marchisio. Sono abbastanza rare le belle notizie, le belle iniziative nel mondo del calcio, dunque vanno valorizzate quando ci sono. E allora questa è che domenica prossima l'intero incasso di Genoa-Inter sarà devoluto alle popolazioni alluvionate. Lo ha deciso il presidente del Genoa Preziosi con la sua famiglia, e per l'occasione, per questa partita di domenica, ora di pranzo, tra l'altro alle 12.30, non saranno contemplati i biglietti omaggio. Vi avevo detto di questa intervista rara ad un arbitro, a Nicola Rizzoli, a proposito, partendo dall'errore di Rizzoli in Inter-Juventus di domenica sera. Sentiamo. L'Italia ha bisogno di uno scatto culturale, oggettivamente non è un problema probabilmente che riguarda Braschi, ma molto di più il nostro presidente Marcello Nicchi, che credo che gli vada atto che sta provando perlomeno a dare la possibilità di comunicare maggiormente. Credo che lo sforzo del nostro presidente sia in questa direzione e gli vada riconosciuto. È chiaro che a noi piacerebbe poter spiegare un errore piuttosto che una cosa fatta bene, piuttosto che un qualcosa che possa essere interessante, soprattutto servire a capire quelle che possono essere le nostre problematiche, le nostre difficoltà, piuttosto che quelle dei giocatori o d'altro. C'è bisogno di uno scatto culturale da parte degli sportivi, dell'Italia e di tutto il mondo in genere. Speriamo che avvenga presto. Noi credo che siamo disponibili a fare dei passi in avanti. E questo era l'arbitro Rizzoli, poco più di un'ora fa ai microfoni di Sky Sport 24. Ha chiamato Victor da Faenza, buongiorno. Buongiorno. Dica. Le volevo chiedere, lei aveva visto la partita ieri sera, le volevo chiedere solo un giudizio. Sul Napoli ho sentito parlare Mazzari prima, che nel primo tempo ha avuto, chiamiamolo, un po' di sfortuna. Ma secondo me, o secondo lei, Fernandez come difensore, come l'ha giudicato? Che secondo me è stato, mancando Cannavaro, è stato un disastro nei due centrali. Meglio nell'area avversaria che nella sua, ecco, questo mi pare che si possa dire di Fernandez. Gli avrà fatto bene a morale aver segnato questi due gol, perché poi due gol all'Allianz Arena sono comunque un'impresa che ti ricordi per tutta la carriera e per tutta la vita. Gli avrà fatto bene, sarà un'iniezione di fiducia, certo, l'importante è ma non tanto migliorare in area avversaria quanto migliorare nella propria, perché è indubbio che non ha sbagliato solo lui, perché ieri sera nella fase iniziale sono in tanti, sono tanti i meccanismi difensivi del Napoli che non hanno funzionato, però certamente Fernandez ha le sue belle responsabilità in quel senso. Ancora un ascoltatore, Francesco Perugia, buongiorno. Sì, io sono un suo ammiratore da sempre, sono un tifoso laziale da 60 anni perché ne ho 70. Però. Quindi il grande Rivera diceva, dice, come che è vivo, dice che le squadre che in tre passaggi riescono ad andare in gol o andare al tiro sono delle grandi squadre. Quindi lei che cosa ne pensa della mia Lazio? In più vorrei dire sul Lotito che io sono un suo ammiratore, a differenza di tanti altri, non voglio dire parolacce contro quei tifosi che fischiano, perché noi eravamo come il Perugia se Lotito non fosse intervenuto, in Serie D, cioè eravamo qualche anno fa, sì. E oggi invece siamo a lottare sia per una cosa che per l'altra, sì. Che ne pensa lei? Grazie, molto gentile. Penso che sia vero che questo di questo vada dato merito a Lotito, tenendo magari anche presente di qualche sconto che Lotito nel frattempo è riuscito ad ottenere, soprattutto nella fase iniziale del suo mandato, ma i suoi meriti poi sono certamente innegabili. Siamo collegati con Fabio Tavelli da Marienplatz, se leggo bene sul display. Presente, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Un saluto da Marienplatz, bella giornata di sole. Bella il sole a Monaco. Però. Sì. Senti. Bel sole, oserei dire anche a Calvino. Senti, e com'è andata la gita sociale di ieri sera per Bayern Napoli? Guarda, benissimo per quanto mi riguarda, o meno per quanto riguarda il Napoli. Se devo fare una valutazione personale, e cioè di nessunissimo interesse per gli ascoltatori, tutto molto bene. Adesso, finito il pranzo, abbiamo visitato e debitamente saccheggiato l'official shop del Bayern di Monaco, che è in Orlando Strasse, proprio qui vicino a Marienplatz, tanto curiosamente di fronte all'official shop del Bayern di Monaco c'è quello del Monaco 1860, che è la squadra che ha sia i colori che lo stemma della città, mentre invece il Bayern ha dovuto piegarsi ad essere la seconda squadra a questo punto di vista, quindi avere anche il nome della Baviera e non della città di Monaco, e ti dirò che quando siamo arrivati più o meno intorno alle 11:30 questa mattina c'erano ancora molti napoletani, molti tifosi del Napoli che non si sono vergognati di entrare lì e acquistare, certo, magliette, gadget, cappellini e quant'altro del Bayern di Monaco. Dunque, intanto da dove te e l'amico tuo, la partita da dove l'avete vista e che atmosfera avete colto? Guarda, l'atmosfera che abbiamo colto, l'abbiamo vista dal nostro posto, con il nostro biglietto che avevamo acquistato, quindi una buonissima posizione. Devo dirti che ovunque all'Allianz Arena si vede molto bene la partita, certo, cioè anche da una posizione molto alta, e credo che lo possano testimoniare anche i tantissimi tifosi del Napoli che erano assiepati in quello che noi chiameremo terzo anello, ma non è un terzo anello, è semplicemente la prosecuzione della gradinata che è spezzata ed è divisa in tre settori. La partita si vede onestamente benissimo, noi eravamo grosso modo a metà, in una posizione centrale, La partita, ripeto, si è vista molto molto bene, l'atmosfera era eccellente. Io tra l'altro ho voluto andare anche a ficcare il naso un po' fuori dai cancelli, sono stato anche un po' fuori per vedere un po' l'aria che tirava. Mi è parso di vedere grande civiltà prima della partita, poi dopo non ho notizia perché mi sono un po' attardato poi con i colleghi e non ho ben visto. Però prima della partita ho visto veramente tanti tanti tifosi del Napoli e del Bar di Monaco arrivare ai cancelli con i loro colori, con le loro magliette, con le loro sciarpe, senza assolutamente dirsi una parola. Ripeto, prima della partita, del dopo non so nulla. Gita di piacere che si conclude quando? Già in giornata, in serata? Sì, guarda, adesso Maurizio sta cercando uno Swarovski per sua moglie e poi andremo a recuperare l'auto nel parcheggio e insomma contiamo di essere a casa per l'ora di cena. Perfetto. Se non ci sono grandi problemi al Brennero, sarà così. Insomma. Ormai ti controlliamo anche nel tempo libero, come vedi. E quindi... È diventato un bel reality. Un bel reality, quindi non puoi sfuggire. Ci sentiamo la settimana prossima di nuovo dai microfoni di Sky Sport 24. Grazie a Fabio Tavelli. Con grande piacere. Ciao Gigi, grazie a tutti. Grazie a Fabio Tavelli. Vi ho detto di questa iniziativa del Genoa e dell'intero incasso di domenica riservato agli alluvionati, sperando di non doverlo integrare. Poi nel frattempo, lo dico per scaramanzia, ma lo dico anche perché abbiamo appena letto previsioni abbastanza impressionanti per i prossimi giorni da un punto di vista meteorologico, e questo che potrebbe riguardare anche zone sinora non toccate, figuriamoci che cosa può essere sui comuni così duramente colpiti, tant'è vero che già in mattinata, per esempio, leggevo che hanno completato già l'evacuazione di Vernazza. Torniamo con qualche numero, per esempio. Allora, il Barcellona, nel Barcellona Messi ha raggiunto quota 202 gol, che è un numero impressionante considerando i 24 anni di età. Ha già segnato quel numero impressionante di gol con quella maglia. Però anche il portiere, l'altra sera, ha raggiunto il record di imbattibilità per un portiere del Barcellona, che sono 824 minuti. Il precedente apparteneva a Miguel Reina, portiere del Barça nei primi anni 70, che era il papà di Pepe Reina, l'attuale portiere del Liverpool. Il Barcellona di Guardiola, che ha compiuto 500 partite l'altra sera in Coppa, ha segnato in queste 200 partite che ha compiuto, ha segnato 500 gol, quindi con una media di 2,5 gol esatta a partita, che insomma mi sembra una media discreta, anche perché in 200 partite ne ha perse soltanto 17. Dopodiché, se vogliamo, visto che Tavelli è in gita premio, le statistiche sono affidate a Franco Piantanide, le curiosità delle coppe, questa corsa dell'Apoel Nicosia in testa al girone G è abbastanza impressionante, perché finora le squadre cipriote erano sempre state dei materassi nelle loro rare partecipazioni alla Champions League. Stavolta se in due partite fanno un punto in casa dello Zenit sono qualificati agli ottavi, e sarebbe un'impresa senza molti precedenti, direi, nella storia delle coppe. Vi dicevo prima di Cassano e dell'intervento già fissato per le prime ore del mattino di domani. Il professor Bruno Carù, che è un luminare per tutto quanto attiene alla cardiologia, ma alla cardiologia sportiva in particolare, parla di un recupero atletico, di un recupero agonistico che potrebbe anche essere un po' anticipato rispetto a quello che si prevede. Sentiamo. Se il soggetto è sano, come sicuramente è sano Cassano, se le cose vanno bene, il tempo di recupero può essere effettivamente sostanzialmente ridotto. È una precauzione, non è sempre indispensabile questo, è una precauzione che è bene tenere per evitare possibili eventuali complicazioni, anche perché nelle prime fasi dopo la procedura è necessario assumere alcuni farmaci antiaggreganti, tipo l'aspirina, la quale sappiamo bene mantiene il sangue un po' più fluido. Esatto. Per cui, praticando Cassano uno sport di contatto, è possibile che dopo un trauma possa avere dei piccoli ematomi. Tra poco l'intervallo per ascoltare come vanno i mercati. Bene, a quanto pare, perlomeno nelle ultimissime ore, speriamo che la tendenza si confermi. E poi avremo la seconda parte del programma con altri vostri interventi e con una parentesi dedicata ad Alex Ferguson e al suo compleanno speciale, che cadrà giusto la prossima domenica. C'è un tecnico che siede ininterrottamente da 25 anni su una stessa panchina, 25 anni meno 3 giorni perché il compleanno, meno 5 giorni perché il compleanno reale di Alex Ferguson è dell'8 novembre 1986, giorno 6, due giorni prima, firmò il contratto con il che lo legava al Manchester United. Il giorno 8 debuttò contro l'Oxford. Come adesso poi ci racconterà con molti più particolari su questi 25 anni, su questa che è un'autentica epopea sportiva e non solo, ci racconterà Nicola Roggero. Buongiorno Nicola. Buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. Beh, io non so, o meglio lo so perché l'abbiamo cercato, che cosa faceva Zamparini nell'86, no? Perché, sai com'è, diventa inevitabile. Zamparini stamane, per esempio, ha raccontato, ho avuto un bellissimo incontro con Mangia, che è l'allenatore attuale del Palermo, gli ha riconfermato la mia totale fiducia, ho dato mandato all'amministratore delegato di adeguare il contratto e quindi questo significa che, insomma, nel giro di 2-3 settimane Mangia potrebbe non essere, sì, ovviamente augurandogli il contrario, augurandogli successi, trionfi e lunga durata sulla panchina del Palermo. Ma insomma, nel 1986 Zamparini era al Pordenone, era presidente del Pordenone, e l'anno dopo sarebbe poi arrivato a Venezia curando prima la fusione con Mestre eccetera, e poi da lì in avanti il lungo periodo di Venezia, questo lungo e felice periodo palermitano e un numero spropositato di allenatori cacciati, ripresi e cose. In questi 25 anni il Manchester United ha investito prima su Alex Ferguson e non sappiamo ancora a questo punto per quanti altri anni Ferguson resterà lì. Guarda, io una volta ho fatto una battuta che può sembrare anche cinica, ho detto che probabilmente Ferguson lo toglierà dalla panchina del Manchester United soltanto il becchino, perché la prima volta che Ferguson annunciò il ritiro era il 2001, sì, quindi sono passati 10 anni, nel frattempo si è ritirato altre 3 o 4 volte, ma è sempre rimasto sulla torre di comando di questa squadra, che tanto per rimarcare ancora ulteriormente la differenza con Zamparini, negli ultimi 66 anni ha avuto appena 7 allenatori, quelli che più o meno Cirino e Zamparini hanno in un anno e mezzo, che conosce, sì, e soprattutto Ferguson quando arrivò al Manchester United 25 anni fa non è che furono subito rose e fiori, anzi nel novembre dell'89, quindi alla scadenza del suo terzo anno al Manchester United, non solo Ferguson non aveva portato a casa nemmeno la Coppa del Quartiere, ma era stato umiliato nel derby con il Manchester City per 5-1. E lì ci vuole veramente tutta la pazienza dei dirigenti del Manchester United per difenderlo dalle critiche e per fare in modo che questo connubio diventasse uno dei più vincenti nella storia club, ma nella storia mondiale del football. Ah, ma certo, infatti il suo primo trofeo risale è un FA Cup del 90 in una finale, nel replay, una finale con il Crystal Palace. L'anno dopo nel 91 vinse il suo primo trofeo internazionale in finale con il Barcellona, la Coppa delle Coppe, con la doppietta di Mark Hughes, e da lì in avanti sono numeri terrificanti che poi magari leggerò alla fine, perché insomma fa veramente spavento pensare che un allenatore abbia vinto, insomma, abbia guidato le sue squadre, poi vincono le squadre i trofei, ma insomma abbia guidato la sua squadra a un numero così impressionante di vittorie. Che tipo è Alex Ferguson? Dunque, è un tipo molto divertente, perché è un signore che ha mille interessi, dalla letteratura ai viaggi, al vino, anche a proposito, grazie ai tanti allenatori italiani che sono arrivati in Inghilterra, soprattutto Ancelotti, ha cominciato ad apprezzare molti vini italiani. Questo è positivo, eh? Questo è molto positivo, visto che insomma, abbiamo appena terminato la vendemmia. Era per i rossi francesi, invece adesso comincia invece ad apprezzare e molto anche i vini italiani. Dicevo, una persona con tantissimi e vastissimi tantissimi interessi, includere anche la politica. Lui una volta ha smesso di giocare, la sua prima occupazione è stata quella del sindacalista nel porto di Glasgow. Insomma, le riunioni sindacali al porto di Glasgow non sono esattamente con i tei pasticcini. No, non credo, a occhio no. È un finanziatore, un seguace del partito laburista inglese, è un uomo di sinistra vera, ecco, non credo che lui si sarebbe trovato alla Leopolda di Firenze con Renzi, o se si sarebbe trovato sarebbe scappato subito. Cioè, ce l'hai con Costa Curta? È un parallelo con Costa Curta, oppure no. Era indipendentemente... E ognuno ha le sue opinioni, io certo. Semplicemente stai raccontandoci Ferguson. Quella di Ferguson. Dice di essere socialista, lui è un socialista sul serio, ecco, non è uno che accetta dei compromessi in questo senso. Io non accetto compromessi soprattutto sul piano della disciplina. Io ricordo un episodio, quando arrivò al Manchester United nell'86, era un'epoca in cui il calcio inglese era molto naif sotto ogni punto di vista, e c'era nel regolamento interno del club il fatto che i giocatori potevano bere fino al giovedì con la partita al sabato. Ferguson naturalmente si inalberò e gli chiesero: ah, vuole spostare il giorno, cosa mettiamo, il mercoledì, il martedì, il lunedì? Lui dice: no, non mettiamo un accidente, i giocatori non possono bere, punto e basta. Tanto che non è un caso che nel Manchester negli ultimi 15-20 anni non si sono mai registrati episodi che invece sono abbastanza comuni agli altri club inglesi. Tanto per dare un'idea dell'amore della disciplina di Ferguson, quando allenava il Sean Stirling in Scozia, era la sua prima squadra dopo che aveva smesso di giocare, a un certo punto in strada subì un sorpasso pericoloso da un altro automobilista. Venuto a sapere che questo automobilista era il centravanti della sua squadra, il signor centravanti si ritrovò della multa, ma non della polizia, dello stesso Ferguson. Tanto per mettere subito le cose in chiaro. Quindi è una persona di quel genere e di quello spessore. È un tecnico che privilegia, la disciplina ce l'hai detto, da un punto di vista tecnico o tattico, qual è stata, se si riesce a individuarla, in questi 25 anni la sua cifra costante? Guarda, da un punto di vista tattico Ferguson ha sempre privilegiato il 4-4-2, non si è mai sostanzialmente mosso di lì, in questo senso è sempre rimasto nel solco della tradizione inglese, quella che prevedeva due ali capaci di crossare, dei centravanti o comunque delle punte in grado di giocare soprattutto in destra. Quindi a mio parere dal punto di vista tecnico-tattico non ha inventato molto. Quello che è stato, secondo me, è il merito di Ferguson, è stato quello di valorizzare da sempre il vivaio, il settore giovanile. Ci sono state le eccessioni di Ferguson che hanno sempre fatto gridare allo scandalo. Io ricordo quando nel 94 lui si roverò in un colpo solo di Robson, di Bruce, di Mark Hughes, gli uomini con cui aveva conquistato i suoi primi titoli, per lanciare la generazione dei Giggs, dei Neville, dei Beckham, degli Scholes. Tutti pensarono che fosse impazzito di colpo, e invece aveva ragione lui, perché queste scelte poi hanno sempre pagato dei dividendi importantissimi, magari non subito, ma nel corso degli anni. È una cosa che sta facendo anche adesso. Quest'anno ha lanciato i Cleverley, Welbeck, i Jones, gli Ashley Young, sono tutti ragazzi che probabilmente non gli assicureranno forse il titolo, visto come sta andando il Manchester City, ma che certamente tra 4 o 5 anni pagheranno il loro tributo. Io penso a uno come Rooney è un giocatore che ha 26 anni e gioca titolare nel Manchester da 7, quindi da quando era 19, e ha raggiunto già dei numeri spaventosi. Quindi secondo me è questa la maggiore capacità di Ferguson, non accontentarsi di vincere, ma di guardare sempre quello che capiterà da lì a 2, 3, 4 anni. Senti, dato che tu sei uno storico cultore del Manchester United da ben prima dei tempi di Alex Ferguson, in chiusura di questo tuo intervento, di cui ti ringrazio davvero, quali sono stati a parer tu i giocatori che sono più entrati nel cuore di Ferguson? Cioè, quelli a cui davvero è stato o è più legato? Ma uno è abbastanza facile, è sicuramente Ryan Giggs, che ha sempre visto Ferguson come una sorta di padre, anche perché il padre di Giggs se ne andò presto dalla famiglia, tanto che è legato a questo il fatto che Giggs non gioca per l'Inghilterra ma per il Galles, un grande scorno ovviamente della nazionale inglese, che ha perso forse la migliore ala degli ultimi 15-20 anni per una scelta personale. Quindi certamente Giggs, che tra l'altro con curiosità era uno che doveva giocare nel Manchester City, da 15 anni giocava già nelle giovanili, non gli facevano il contratto, un collaboratore di Ferguson disse: Alex, vado un po' a vedere quel ragazzino gallese che gioca per il City, e Ferguson ci mise credo 20 minuti a capire di che stoffa era fatto, lo chiamò e disse: caro mio, domani mattina vieni nel mio ufficio, c'è pronto un contratto per te. Presentati allo United. Esatto. Il secondo giocatore è certamente Roy Keane. che è stato un duro, un giocatore se vogliamo abbastanza grezzo dal punto di vista tecnico, ma sicuramente un trascinatore per il campo. Io per i meno giovani, tanto per fare un paragone, direi Ferrini, lo storico capitano del Torino, un leader come pochi. Io ricordo una volta una battuta di Ferguson, disse: se ne avessi altri 10 come te vincerei tutto, compreso il derby di Ascot, perché Ferguson è anche un grande appassionato di cavalli. Senti, è vero, veramente domanda conclusiva, è vero che da un punto di vista caratteriale, no, di personalità, l'unica persona che gli tiene a testa è la moglie? Sì, è l'unica persona che veramente può in qualche modo frenare Ferguson, uno che non ha problemi ai suoi giocatori, come si dice al Manchester, my way or the highway, cioè o la mia via oppure l'autostrada. Lui non ha avuto problemi a cacciare i Beckham, i Van Nistelrooy, gli Stam. Il problema è la moglie. So anche qui un episodio: una volta Ferguson era una partita prestagionale e la moglie disse: guarda che non puoi muoverti. Come non posso muoverti? Non posso muovermi, dice lui. Io gioco un amichevole. E la moglie disse: sì, ma mi sono informato, è un amichevole in cui farei giocare le riserve e tu mi hai promesso che mi aiuterai a fare il trasloco. non è male, anzi è molto ma molto carina questa. Bello vedersi Ferguson impegnato in questo trasloco. Nicola, grazie davvero. Grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Era Nicola Roggero, uno studioso, no? di sport in generale, non solo di calcio, perché è un grande appassionato di atletica, di ciclismo, di tante altre discipline, ma che ha il gusto proprio per lo studio e il racconto dei personaggi, che vale la pena approfondire. Ascoltando il racconto di Nicola Roggero, il tempo è passato e mi sono dimenticato questo palmarès, che consta di 12 in 25 anni, consta di 12 campionati d'Inghilterra, 5 coppe d'Inghilterra, 4 coppe di Lega inglese ovviamente, 10 Community Shield che sarebbe la Supercoppa inglese, vabbè queste non le contiamo magari, 2 Champions, 1 Coppa delle Coppe, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe intercontinentali. Vi siete dimenticati di Cantona, scrive Simone. Beh, no, ci siamo dimenticati di tanti, a parte, è ovvio, no? In 25 anni quanti campioni sono passati per Old Trafford e hanno indossato la maglia del Manchester United. Nicola Roggero ne ha ricordati i due simboli. Due dei simboli delle squadre allestite in questo quarto di secolo da Ferguson, e quindi Giggs e prima di lui Roy Keane. Una voce, le voci di vigilia di stasera, perché ripeto, anche l'Europa League ha il suo decoro, la sua dignità, l'Udinese la sta interpretando molto bene e soprattutto fa quoziente, no? fa sì che si possano riprendere punti in maniera da tornare chissà in che futuro ad avere 4 squadre che si qualificano per la Coppa Maggiore anziché 3 come quest'anno, visto che una l'abbiamo persa per strada. In casa stasera tocca la Lazio contro lo Zurigo, sentiamo Reia. Non abbiamo alternative, questa è una gara assolutamente da vincere se vogliamo continuare questa esperienza europea. Abbiamo faticato molto per arrivare, diciamo, a partecipare ai gironi. Niente, vorremmo continuare. È chiaro che c'è da tenere in considerazione anche lo stato attuale di condizione fisica, soprattutto qualche problema sicuramente l'abbiamo, perché Conco ieri non si è allenato, ancora qualche piccolo problema. Klose, anche se sta bene, lo stesso Sissé, hanno minutaggi, diciamo, importanti, non dico che siano faticati, però sono da tenere in considerazione eventualmente, non so se subito o eventualmente anche a partita in corso, perché non intendo sicuramente privarmi del loro apporto. Sì, da una parte, e dall'altra devo tener conto, cioè mi immedesimo in Eddie Reia, devo tener conto che poi domenica si rigioca in campionato, stasera è già giovedì e si rigioca in campionato. Insomma, il campionato è sempre importante, ma quando sei al secondo posto a un punto dalla prima è evidente che è un po' più importante ancora, insomma. Ciro ha chiamato da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Ci risentiamo di nuovo a distanza di qualche anno. Ando. Niente, io mi riallacciavo un attimino al discorso che facevate prima su Ferguson. e chiedevo quale allenatore italiano potrebbe somigliare di più a Ferguson. Io dicevo Mazzarri, ma qualcuno mi diceva ha un carattere troppo ribelle, troppo particolare. Guardi, non lo so, bisognerebbe conoscere Ferguson più da vicino. Mi spiace che abbiamo chiuso il collegamento con Nicola Roggero, perché lui ci avrebbe magari aiutato, ci avrebbe orientato. Però sinceramente non lo so, penso che sia difficile. Mi sembra anche che Ferguson somigli poco agli allenatori di casa nostra. Io sono sempre lì, ho sempre un po' in testa Ancelotti quando penso a questi paralleli, no? Perché è un signore, perché ha un discreto stile, no? British, direi, non a caso si è trovato molto bene al Chelsea e si sta trovando molto bene a Londra e non ha questa gran voglia di tornare in Italia, contrariamente a quanto si pensava in un primo tempo. Però Ferguson, forse anche più di Ancelotti, è capace anche ogni tanto di arrabbiarsi, ma di arrabbiarsi sul serio. Ogni tanto qualche mezza squalifica con l'arbitrale la rimedia, perché lui a fine partita, quando c'è qualcosa che non gli torna, non le manda certamente a dire. Non lo so sinceramente quale sarebbe il paragone. Certo Mazzarri in mente non mi veniva, non le so dire perché, ma non mi sarebbe tornato. Atletico Madrid Udinese. Allora, questa è ripeto la classifica del girone dà all'Udinese una buona tranquillità e può permettergli anche una sconfitta stasera, che potrebbe non costare così cara. Poi è ovvio che vai fino a Madrid e già che ci sei arrivato non ci vai certamente per perdere. Sentiamo Floro Flores. Ero contento della vittoria, della prestazione mia personale e per il gol. Speriamo di ripeterci lì a Madrid, che è importante, e chiudere il capitolo qualificazione in modo che abbiamo il campionato più tranquillo. Anche perché vale lo stesso discorso della Lazio, anzi lo stessissimo discorso della Lazio. Mi pare che, dato che tutte e due, Udinese e Lazio, sono seconde in classifica, e tra l'altro l'Udinese domenica ha in casa una partita molto impegnativa dal punto di vista atletico, perché mi pare sia il Siena, ma insomma tecnicamente potrebbe essere alla sua portata, ecco che vale per tutte e due la proiezione sulla domenica. L'unico è Lippi, scrive un ascoltatore, a proposito di quello che diceva il napoletano Ciro, e cioè di qual è il tecnico italiano che potrebbe assomigliare a Ferguson. Il più simile a Ferguson è il Trapp, scrive un altro, e invece un altro ancora scrive l'unico poteva essere Rocco, e io devo dire che anche per ragioni sentimentali sarei più per il terzo, sarei più per il Paron, perché mi sembra anche sul piano, adesso lasciamo stare il vino che indubbiamente è un'affinità elettiva non da poco, ma mi sembra che sul piano caratteriale, degli atteggiamenti, di un certo stile, non masticava quella maniera Rocco, anzi credo che non abbia mai soltanto scartato una gomma americana in vita sua, mentre invece Ferguson è un divoratore, quindi da un punto di vista estetico era anche meglio, direi, il Paron, era persino più elegante in certe meno che magari sulle calzature da campo, ma questi sono excursus. Sembra ieri l'appuntamento con Nicola Filippone. Sentiamo, visto che ho parlato di Rocco, salta fuori Trieste, oggi è la festa del patrono della città, perché è San Giusto, e vediamo che cosa ha scovato per San Giusto per il 3 novembre Nicola Filippone. Sembra ieri. 3 novembre 1985. La Fiorentina di Agroppi travolge al comunale l'Inter di Castagnere. I viola si impongono per 3-0 e le reti portano le firme di due futuri interisti, Daniel Passarella e Nicola Berti. Il libero argentino sigla due gol, di cui uno su rigore. A fine campionato saranno 11 le reti realizzate da Passarella, un record per un difensore. Per il 18enne Berti si tratta invece del primo gol in Serie A. La squadra allenata da Agroppi, che spicca per la nutrita presenza di giovani, chiuderà il torneo con un brillante quarto posto. Ma che bello questo messaggio, un caro saluto ai magnifici di Radio 24, cioè a tutti. Beh, insomma, proprio tutti lei è generosa. Comunque, FL, insegnante in pensione, solo le iniziali, anni 81. Grazie, signora, a nome di tutti. Un altro Ciro da Napoli, e mi segnala dalla regia, che non è quello di prima, è proprio un altro Ciro da Napoli. D'altra parte, il nome, diciamo, che è discretamente diffuso, no? Ciro, buongiorno. No, abbastanza, buongiorno a lei. Buongiorno. Senta, sì, allora, sostanzialmente, io rispondo al mio concittadino. Qui siamo in tanti a Napoli che riteniamo Mazzarri un allenatore molto fortunato, aiutato più dalle individualità dei propri calciatori piuttosto che dalla sua bravura. L'ho dimostrato ieri che il Napoli ha giocato meglio quando è passato a 10 uomini per essere per espulsione di Zuniga, finalmente ha messo la difesa a 4. E le dichiarazioni del mister, le posso garantire, dopo la partita non sono piaciute a nessuno di noi, cioè sentire dire che Napoli ha dimostrato il proprio gioco sembra che si è vista un'altra partita. Lo dico solamente per questo, senza nessuna polemica. Ferguson, appunto il Paron, magari un allenatore che non ha allenato come Zoff sarebbe potuto essere all'altezza. Altra categoria, Ciro, anche da un punto di vista immagine. Guardi, Mirko per esempio ci scrive, io direi Lidholm come più simile a Ferguson. Ecco, questo è un altro eccellente, è un vero eccellente paragone. E abbiamo finito il tempo anche oggi. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.